bene signori, ciao a tutti, a dopo, se no faccio tardi capo. Sì, io sono fermato a città mercato, qua a scaricare, a si scaccia di volchi, ho preso uno vuoto e fatto a orbitare. Ehi, no, io adesso sgancio, aggancio e sto andando a scala di ciocca, capo. Senza prendere per i fondilli, se non vi volete parlare male. Ok, a chi stiamo prendendo per i fondilli? Che stiamo prendendo per i fondilli? A te? Qui siamo camionisti anche noi, mi stai chiedendo se? Cazzo ce l'ho dubbio, guidare un camion, ah? O faccio venire a Salvatore Barra Agricola qua e poi fa una strage. Ma c'hai mammo Claudio, nel rimorchio? Allora, sono carico di mammo. Parlando da Micolis, lo conosci? Amicolis. Amicolis, il fratello di Falcone. Non si può neanche scherzare qua, si affondano subito, gabbo. Ah, io ganaio, io prima tocca fare una strage, no, gaio. Claudio! Dimmi! Bombolo! Io sono a carico di Tostui, dove li devo scaricare? Di tartarughe? Sì, Tostui. Ah, vai da che vede un coso in Chivi a Predanieta, carregheggia in Chivi. Sempre nascosto, zona Ponte Oro, gaffa. Che va di un cane di farfalle, gaffa. Inca, ma senza Delone, allora non te ne è rimasta manca una. Ah, un Delone, insomma. Franco va un rimorchio di nebbia. Faggio un carico di razzo io, gatto, non so gaggadallo. Ah, non è, fatele dire. Sì, Marco. Dai, io sto uscendo, ci sentiamo dopo. Subito ci pintene a Marco. Un carico di macchine hai. No. Un carico di macchine, ve l'hai due, capo.